Europa 24. E torniamo a parlare di giustizia anche in apertura di questo appuntamento europeo. Stamattina infatti la Commissione europea ha diffuso il report sul tema. Apprezzo molto gli sforzi dell'attuale governo, ha detto la commissaria alla giustizia Vera Jourova, e sono consapevole del fatto che la persistenza di una percezione negativa dell'indipendenza della magistratura è eredità dei tempi e dei governi passati. È un quadro in chiaro oscuro quello pubblicato oggi dalla Commissione europea sul sistema giudiziario in Italia. Il rapporto, che riguarda i 28 paesi dell'Unione, mette l'accento sulle tradizionali fragilità della magistratura italiana. Sono necessari oltre 500 giorni per avere un primo grado di giudizio in campo commerciale o amministrativo. L'Italia in questo settore è sempre in ritardo, fa meglio solo di Cipro e Malta. Nel suo rapporto la Commissione europea sottolinea anche come la magistratura italiana sia considerata poco indipendente da cittadini e da imprese. Al tempo stesso però l'esecutivo comunitario nota miglioramenti e rende merito al governo. L'esecutivo aveva promesso di mettere mano nel 2015 al diritto processuale, all'informatizzazione della giustizia e alle professioni legali. Nei tre casi il governo ha rispettato l'impegno. Leda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Le ONG dovrebbero dare informazioni corrette ai migranti bloccati ad Idomeni al confine fra Grecia e Macedonia, lo ha detto la portavoce dell'esecutivo UE rispondendo a chi chiedeva un commento sugli scontri di ieri con la polizia macedone. La commissione, ha detto Mina Andreeva, continuerà a dare il messaggio che i rifugiati ad Idomeni devono essere rilocati in Grecia e non dovrebbero cercare di affrontare un viaggio pericoloso o irregolare, e le ONG dovrebbero fornire informazioni corrette ai migranti allo scopo di evitare ulteriori incidenti. Intanto, ad una settimana dall'avvio del piano UE-Turchia, gli arrivi hanno subito un drastico calo. Sono solo 18 i migranti e rifugiati sbarcati sulle isole greche dalla Turchia nelle ultime 24 ore. Ed ora andiamo a Strasburgo. Una tappa in più per gli eurodeputati in arrivo a Strasburgo per la plenaria del Parlamento europeo. Una tappa a suo modo tecnica per iniziativa dei Verdi. All'ingresso, prima dell'emiciclo, è comparso uno stand particolare. Distribuisce contenitori per l'analisi delle urine. L'obiettivo, spiegano gli Euroverdi, è testare la presenza del discusso glifosato, il principio attivo più utilizzato al mondo per produrre erbicidi e considerato probabilmente cancerogeno dall'OMS e probabilmente non cancerogeno dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Mercoledì il tema arriverà in plenaria e i Verdi hanno chiesto ai loro colleghi di sottoporsi al test. Un voto politico più che di indirizzo, visto che per ora la Commissione non ha ancora deciso se rinnovare la concessione in Europa, ma entro giugno una decisione andrà presa, visto che per quella data scadrà l'autorizzazione in vigore. La questione sarà di nuovo sul tavolo del prossimo Comitato Europeo il 18-19 maggio, ma niente impedisce, fanno sapere, che la riunione possa essere anticipata. Vista anche l'alzata di scudi da parte di Italia e Francia, ma anche la pressione esercitata da diversi gruppi politici, dai socialdemocratici ai Verdi fino alle ONG. Bruxelles in realtà vorrebbe evitare di diventare scudo a decisioni che i Paesi membri non vogliono prendere e attende altri pareri. Intanto, parola, si fa per dire, agli europarlamentari. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.